Globetrotter 24 di Annarita D'Ambrosio e Valeria De Rosa. Ben ritrovati, periodo festivo torna come da tradizione, potremmo dire, l'appuntamento con Globetrotter 24. Periodo di feste, periodo di vacanze, e allora tornano le nostre indispensabili segnalazioni, vero Valeria? E sì Anna, diciamo che noi spuntiamo proprio nei momenti più belli dell'anno, e quindi in estate e in inverno durante le vacanze tra Natale e Capodanno. Anche quest'anno siamo tornate a fare un giro in Italia e in Europa per curiosare un po' tra le iniziative in corso, tra i mercatini, tra le città che sono più richieste, tra le proposte da farvi. Non siamo da sole, ci siamo fatte aiutare da chi ne sa più di noi, in questo caso da Stefano Brambilla, caporedattore e giornalista del Touring Club, content manager del sito touringclub.it. Partiamo invece che dalle mete, partiamo dalle mostre, perché per chi rimane in città ci sono anche tante cose da fare, da vedere, in particolare appunto le mostre, e questo è stato anche un bellissimo anno da questo punto di vista, un po' per tutto il paese. Sì, è proprio vero, guarda, anche noi ci siamo occupati, ci occupiamo sempre di arte e cultura sul nostro sito touringclub.it e ci occupiamo spesso di mostre, e devo dire che anche adesso per le vacanze di Natale, tra Natale e Capodanno e anche poi dopo l'Epifania, alcune mostre finiscono a metà gennaio, altre anche dopo, c'è davvero l'imbarazzo della scelta per chi rimane in città o per chi vuole andare a vedere un'altra città che non sia la sua, perché ovviamente le mostre possono anche essere il motivo per spostarsi, andare a fare un giro in un'altra città e nel frattempo approfittare per vedere una delle bellissime mostre. C'è davvero l'imbarazzo della scelta. Noi abbiamo fatto un po' un riassunto sul nostro sito, possiamo consigliare senz'altro il panorama vastissimo a Roma e Milano, perché in questo periodo davvero c'è di nuovo l'imbarazzo della scelta. A Roma si può spaziare da Manet a Hokusai, il grande artista giapponese, fino a Picasso, all'Arcimboldo, che è quell'artista che faceva i ritratti con i fiori e con gli elementi naturali. E poi c'è anche una mostra su un bravissimo artista estone che nessuno conosce, si chiama Konrad Magi, alla Galleria Nazionale, che consigliamo davvero. E a Milano, parallelamente a Palazzo Reale, c'è Caravaggio, Toulouse-Lautrec, è un grande genio della fotografia, l'erede di Robert Capa, James Nachtwey, che è davvero un grande interprete della fotografia moderna. E se poi volete, ti interrompo, ci sono sì, anche delle città, diciamo, un po' più piccoline che offrono delle mostre altrettanto belle. Esatto, infatti, ed è il caso per esempio di Pistoia, che è una città toscana che rimane un po' sempre dietro le quinte, perché sai, si conosce ovviamente molto meglio Pisa, Siena, Firenze, e Pistoia rimane un po' nascosta. Quest'anno Pistoia è stata capitale italiana della cultura, quindi grande anno per il capoluogo, che hanno fatto un sacco di eventi, di manifestazioni, di riaperture di musei, e per concludere l'anno c'è una bellissima mostra a Palazzo Fabroni su Marino Marini. Marino Marini è un grande scultore del Novecento italiano, magari ancora poco conosciuto dal grande pubblico, però davvero interessante. Tra l'altro questa mostra mette in parallelo le sue opere con quelle degli artisti a cui lui si è ispirato, ma anche opere di secoli passati, da opere etrusche, romane, rinascimentali, che hanno significato qualcosa per la scultura di Marini. Senti Stefano, questo è stato un anno eccezionale anche per la neve, perché è già caduta in moltissime località, la stagione è ampiamente aperta, quindi diciamo che per chi invece vuole muoversi e vuole fare un altro tipo di vacanza, questo è un ottimo anno anche nelle vacanze tra Natale e Capodanno. In confronto all'anno scorso, quando ancora stavamo aspettando la neve in questo periodo, quest'anno di neve ce n'è già tanta, e per cui via libera tutti gli sport invernali. Noi sul sito abbiamo consigliato, ci siamo un po' soffermati su un turismo più lento, se vogliamo, rispetto a quello di chi va sulle piste da sci, e consigliamo tanti itinerari con le ciaspole, con le racchette da neve. Abbiamo fatto un paio di articoli, uno sulle migliori escursioni su tutta sulle Alpi, uno sulle Dolomiti, e c'è anche qui davvero tantissimi posti. Ormai andare con le ciaspole è diventato quasi una moda, ma è comunque un modo per avvicinarsi meglio alla natura, per godere meglio dei panorami. E tra l'altro, Stefano, è anche un modo più economico, perché abbiamo letto che comunque la stagione è ripresa alla grande, ma sono anche aumentati un po' i prezzi degli ski pass. È verissimo, anche se non si ha le ciaspole, le si può ormai noleggiare veramente ovunque e costa molto meno rispetto a fare una giornata sugli sci, questo è indubbio, per cui è economico, più rilassante, forse anche meno stancante, permette di ammirare più il panorama. Per esempio, noi consigliamo molto di andare nel Parco del Gran Paradiso, dove ci sono tra l'altro tantissime escursioni programmate in questo periodo con i guardaparco, che è una cosa bellissima perché si va nel parco a vedere gli animali e la natura in compagnia di qualcuno che il parco lo conosce a menadito, e questo sia sul versante valdostano sia sul versante piemontese, quindi sia nelle valli di Cogne e di Ramnotre Dam, versante Val d'Aosta, sia a Ceresole Reale, che invece è versante piemontese. Ci sono delle ciaspolate, dei golosi, per chi vuole abbinare le ciaspole, magari. È sempre bello, no? Certo. Mangiare un dolcetto, una merenda o così dopo aver fatto un po' di sport. E ci sono anche delle escursioni per i più piccoli in ciaspola a Notre Dame, proprio per insegnare anche ai ragazzi a muoversi sulla neve. Senti Stefano, e poi in periodo festivo ci sono i tantissimi presepi viventi d'Italia, di cui il sito del Touring dà ovviamente conto. Sì, guarda, abbiamo fatto recentemente un articolo su quali sono i presenti viventi più belli, ed è stato sorprendente scoprire quanti ce ne sono, perché anche noi ne conoscevamo qualcuno, ma non avevamo, come dire, idea di quanti comuni investano su delle tradizioni sentitissime, perché davvero il bello poi del presepe vivente, sì, va bene la parte turistica, perché ovviamente richiamano tanti turisti, ma è bello vedere come i paesi si mobilitano e partecipano nel costruire queste enormi scene della natività, con tanto di mercati, ricostruzioni storiche, figuranti in costume, fiaccolate, e ce ne sono tantissimi, ecco, in tutta Italia. Proprio su questo volevamo stimolarti, sì, magari lasciando da parte quello di Matera, su cui avremo un approfondimento tra poco, ma quali altri possiamo andare a scoprire? Guarda, ce ne sono tantissimi, soprattutto al sud. Io partirei senz'altro da quello di Greccio, perché Greccio è una località in provincia di Rieti. Scusami Stefano, mi viene in mente una battuta di Bella Vista. Ce ne sono tanti, sì, al sud, perché come diceva Bella Vista, il presepe è meridionale, mentre al nord fanno l'albero di Natale. In parte, guarda, devo dare ragione a questa battuta, perché se poi guardiamo appunto la localizzazione geografica di questi presepi viventi, se ne trovano molti di più al sud rispetto al nord, dove la tradizione forse un po' più recente è arrivata dopo e comunque non è così sentita rispetto alle regioni meridionali. E dicevo, si parte da Greccio, che è in provincia di Rieti, dove venne allestito il primo presepe del mondo, quindi chi meglio di loro può ovviamente organizzare un presepe, perché il primo presepe del mondo, forse non sapete, o forse sì, venne fatto da San Francesco d'Assisi nel 1223, e per cui il Greccio si definisce la città del presepe, e ogni anno organizza una rappresentazione bellissima. Tra l'altro, a differenza degli altri presepi, no, le scene non rievocano quelle della Natività, ma proprio la storia del presepe di San Francesco, quindi anche una cosa un po' diversa rispetto agli altri. E poi citiamo quelli campani, in Campania ce ne sono davvero tanti, a Vaccheria in provincia di Caserta, poi a Morcone, a Baselice in provincia di Benevento, dove a Baselice sono più di 350 figuranti, quindi pensate, sono 40 le scene, tutte ambientate in cantine, case, palazzi, quindi è proprio il paese intero che prende vita. E poi anche in Sicilia sono... Ce ne sono tanti, adesso non vorremmo far torto a nessuno, ma per esempio a Gangi, che è un bellissimo paese in provincia di Palermo, dove vengono rifatte le rappresentazioni della Palestina antica con grandissima partecipazione della popolazione, e poi Custonaci in provincia di Trapani, dove ci sono quasi 200 gli interpreti che danno vita a una rappresentazione nella grotta vicino al paese. Tra l'altro, tutti questi presepi, magari qualcuno può pensare che sono organizzati soltanto vicino a Natale, invece tanti vanno avanti proprio fino all'Epifania e anche oltre, per cui e poi tra l'altro anche nei primi giorni di gennaio, per cui c'è anche tutto il tempo per organizzarsi e andare a vederli. Sul nostro sito touringclub.it ci sono appunto tutti i dettagli, tutti i link poi ai siti dei vari presepi da andare. Stefano, tu sei come sempre preziosissimo, tantissime informazioni per questi giorni e non solo. Noi ti ringraziamo, vero Valeria? Sì, grazie Stefano, veramente, perché abbiamo cercato di toccare i vari aspetti, quindi dalle mostre anche alle escursioni in montagna, i presepi che ovviamente non potevano mancare nelle feste, e quindi grazie. Grazie a voi, auguri e buona pausa natalizia. When I'm feeling blue. Come avete sentito nella chiacchierata con Stefano, abbiamo citato anche i presepi. Quest'anno, un anno particolare per Matera, allora Anna, ho chiamato Luca Prisco, che è il presidente dell'associazione Matera Convention Bureau, che organizza il presepe vivente. Siamo all'ottava edizione, nasce nel 2010 e quest'anno praticamente siamo all'ottava edizione, anche se abbiamo apportato delle modifiche sostanziali, perché quest'anno il presepe è fatto esclusivamente da attori. Sono sei scene, è come se avessimo ritagliato sei frame della vita sulla nascita di Gesù, e quindi la gente entra e assiste da 6 a 10 minuti alla rappresentazione sacra teatrale. Come si svolge nella pratica? C'è un percorso da seguire? Perché immagino che siano scene che si svolgono in diversi punti dei Sassi di Matera. Sono all'incirca un chilometro di percorso, si parte dal centro storico fino ad arrivare in uno dei due quartieri più importanti dei Sassi, che è precisamente il Sasso Barisano. Si entra a gruppi in questi siti bellissimi, sottoterra, chiese rupestri sconsacrate, ipogei, sono ambienti veramente particolari. Ricordiamo che nei Sassi hanno girato tanti film sulla vita di Gesù, quindi l'ambientazione è perfetta. All'interno di questi siti vengono riprodotti scenograficamente, quindi abiti sartoriali, allestimenti particolari e tutto quanto, vengono riprodotti questi, è come se fossimo in una Galilea di 2000 anni fa. Gli attori, seguiti da un regista che si chiama Gian Piero Francese, praticamente mettono in atto questo pezzo della vita di Gesù, quindi si parte con l'Annunciazione, mestieri e mercato, perché ricordiamo che quando Gesù nacque era nel pieno di questo mercato. E poi praticamente proseguendo c'è l'antico Sinedrio, che viene svolto all'interno di una chiesa rupestre bellissima del XIII secolo d.C., si chiama San Pietro Barisano, e poi proseguendo si arriva fino a un ex convento agostiniano, all'interno del quale c'è la corte di Erode, il quale appunto, come le testimonianze dicono, grida a gran voce la strage degli innocenti, e poi la Natività, che è uno dei momenti più toccanti, più belli, più sacri, con questi attori giovanissimi ma bravissimi, e praticamente c'è questo il clou appunto con la Natività. C'è un orario? Perché immagino che non saranno, tra virgolette, in scena tutto il giorno. Tutto il giorno no, ma 8 ore di seguito sì. Noi iniziamo alle 13, i primi gruppi si mettono in moto alle ore 13, fino ad arrivare alle ore, l'ultimo ingresso è alle 20:30, quindi là il tutto finisce alle 22. Ecco, giustamente lei sottolineava come ci si muova a gruppi. C'è una modalità per cui bisogna prenotare, bisogna seguire un iter particolare seguire? Sì, bisogna andare sul sito presepematera.it, vedere quelle che sono le giornate ancora libere, perché non per vantarci, ma molte date sono sold out e quindi è tutto pieno. Bisogna vedere quelle che sono le date libere e da lì partire appunto con la prenotazione online obbligatoria, perché per un fatto di sicurezza pubblica, dopo gli avvenimenti di Torino, il Ministero degli Interni ha dato tutta una nuova impostazione, la questura, la prefettura di Matera ci dà appunto delle dinamiche molto chiare e precise di come la prenotazione deve avvenire. Il costo? Il costo è di 8 euro per persona, gli under 10 non pagano. Non mi resta che da chiederle se per questo anno in cui avete così implementato il presepe vivente lei non abbia qualche desiderio particolare. Mi pare di capire che comunque il sold out è assicurato, ma forse ci sono altri desideri che avete. Il mio più grande desiderio può sembrare una boutade lì, sarebbe quello di avere il Papa al presepe vivente di Matera. Nel 1994 noi ospitammo Papa Wojtyla. Sarebbe bello, se non bellissimo, poter accogliere nelle prossime date del presepe vivente il Papa Francesco. Saremmo veramente molto, molto, molto fieri e orgogliosi di questo, proprio perché la magia del Natale con la nascita di Gesù nei sassi di Matera assume un connotato completamente diverso. Valeria, il presepe vivente tra i sassi deve essere assolutamente suggestivo e straordinario, ma lo è anche quello che sto per proporti, perché è in una località di mare ed è un presepe che mi ha davvero incuriosito, perché pensare al Natale sulla spiaggia, sai, sembra un po' strano, ma non lo è. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on the one horse open sleigh. Siamo in Veneto, 43 chilometri circa da Venezia, un lungomare lunghissimo, eppure il Natale si vive in una maniera molto particolare. Come lo chiediamo e la ringraziamo all'assessore al turismo di Jesolo, Flavia Pastò. Salve. Salve. Allora, Jesolo, conosciuta, insomma, una storia della città molto legata a Venezia, 43 chilometri, l'abbiamo detto, uno dei litorali più frequentati d'Italia e non solo, con i suoi 15 chilometri di sabbia ambrata. Però non c'è solo questo a Jesolo, ci sono anche tante iniziative per il Natale. Eh sì, quest'anno poi in particolare ne abbiamo concentrate un po' di più rispetto agli anni precedenti e abbiamo inaugurato i primi di dicembre lo Jesolo Christmas Village, che è il nostro mercatino classico, tradizionale mercatino di Natale, alla sua seconda edizione, però si è raddoppiato, quindi le casette sono diventate 70 che vendono sia oggettistica appunto per il Natale, ma anche food, ma anche prodotti tipici locali, e poi la casetta di Babbo Natale con i bambini che ogni giorno cercano di poter salire, insomma, sulle ginocchia di Babbo Natale, gli elfi e tutta una serie di manifestazioni, di spettacoli appunto che ogni giorno e ogni weekend presentiamo nella zona del Lido. Abbiamo invece presentato come primo anno il paese di cioccolato nella piazza appunto di Jesolo Paese. Anche qui abbiamo delle casettine, quindi un piccolo villaggio, però questa volta dedicato al cioccolato, quindi la vendita di prodotti dolciari, e la biblioteca accanto alla piazza è stata trasformata nella ciocoteca e ogni pomeriggio vengono realizzati dei cooking show o dei corsi per insegnare ai nostri giovani cittadini a utilizzare il cioccolato per degustazioni o anche solo per farcire il panettone, e poi vengono fatte delle letture sempre sul tema ovviamente del cioccolato per i più piccoli. E poi... Ecco, possiamo dire, assessore, che il lungomare si anima un po' quasi come d'estate, perché insomma le iniziative vanno avanti fino al 7 gennaio. Sì, queste due iniziative vanno avanti parecchio e soprattutto nei primi due weekend hanno avuto un riscontro molto interessante, parliamo più insomma di 10.000 visitatori, e quindi non dico le stesse cifre del periodo estivo, però numeri molto importanti. La cosa invece che porta circa 100.000 visitatori ogni anno è il Sand Nativity, che è il nostro presepe di sabbia, è giunto alla 16ª edizione, e qui invece abbiamo proprio il classico presepe, però realizzato da artisti provenienti da tutto il mondo, con un direttore artistico che è Richard Varano, che è appunto un famoso scultore di sabbia della Florida, e ogni anno viene scelto un tema e vengono realizzati questi imponenti diciamo costruzioni di sabbia seguendo il tema della natività, comunque legato all'idea del presepe classico. Ci parla dell'iniziativa di quest'anno? Questa è un'iniziativa appunto che facciamo da 16 anni. Quella di quest'anno ha come tema le parabole, quindi il titolo di questo grande presepe è Va e anche tu fa lo stesso, e sono state rappresentate le parabole più famose come il figlio al prodigo, la pecorella smarrita e poi ovviamente immancabile la rappresentazione della natività classica. E tra l'altro è un po' un'anteprima, abbiamo dato un'anteprima, perché l'anno prossimo, oltre a esserci nuovamente all'Ido di Jesolo il San Nativity, lo portiamo anche in Vaticano, quindi lo portiamo a Roma, in piazza San Pietro a fianco all'obelisco, e realizzeremo un piccolo presepe di sabbia anche per la città del Vaticano. Ecco, un'iniziativa molto bella dunque, che viene anche esportata e acquisterà probabilmente un'eco ancora più vasta di quella che ha adesso. Assessore, sono statue altissime, abbiamo detto? Sono delle costruzioni molto alte, sì, sono dentro a una tensostruttura, quindi si può passeggiare perché c'è tutto un percorso per poterle ammirare, e sono molto alte, quindi anche e sono a livello... protette, immagino che anche la gestione non sia facile, insomma. Sono ovviamente protette perché causa l'intemperie e il maltempo, sennò c'è il rischio che si rovinino la sabbia del nostro litorale, che viene appunto purificata e compattata, e veramente l'effetto scenico è molto interessante e molto bello. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Presepi tra i sassi di Matera, presepi sulla spiaggia, insomma tantissime segnalazioni, un appuntamento, quello con Globetrotter 24, che però, Valeria, non è assolutamente finito, perché c'è chi resta in Italia, ma ci sono tanti che sono partiti o magari stanno per partire. E allora devono restare all'ascolto, perché noi torniamo tra pochissimo. Globetrotter 24. Valeria, allora, come detto, andiamo all'estero in questa seconda parte. Sono tante le segnalazioni da fare, e allora ci siamo fatte aiutare da chi ne sa più di noi anche in questo caso. Luca Cotichini di Valica, che racchiude vari siti di turismo. I'm dreaming of a white Christmas. I dati dicono sostanzialmente questo: noi in questo periodo stiamo proponendo agli utenti vacanze, eventi e destinazioni un po' in tutta Italia e l'estero, e abbiamo notato su un sito che è Travelful come l'Est Europa, i mercatini dell'Est Europa stanno avendo moltissimo successo sui nostri siti in termini di traffico, e sui social in termini di like, quindi l'engagement che stanno avendo è molto molto interessante. L'Est Europa è forse un po' perché una meta fuori dai soliti circuiti turistici, il fascino comunque del Nord Europa, dell'Est Europa è sempre molto ricercato per il periodo natalizio, e un po' per i prezzi che non sono... Ecco, il fronte prezzi è molto interessante, mi pare di capire. Voi avete comunque un osservatorio privilegiato, e quindi insomma i prezzi sono particolarmente competitivi. Sì, Travelful è un marketplace, quindi è un luogo dove gli operatori pubblicano le migliori offerte, quindi il prezzo è sicuramente una componente importante, e per i mercatini dell'Est Europa siamo su livelli medio-bassi, diciamo, anche se poi la qualità è importante, perché sui prezzi di 500-600 euro a persona c'è sia il volo, il pernottamento e anche dei servizi accessori sul luogo, come guide o esperienze da vivere proprio sulla destinazione. Quindi sì, il prezzo è importante, però secondo me sta andando bene anche per l'atmosfera che richiama, perché le fotografie, le foto, le immagini che mettiamo evocano il Natale in un modo molto molto interessante, no? Ecco Luca, proprio a questo proposito, volevamo capire se c'erano degli aspetti particolari che hanno i mercatini dell'Est Europa rispetto a quelli che forse sono più vicini a noi, che noi conosciamo meglio, a parte i nostri italiani dell'Alto Adige, ma anche quelli tedeschi, gli svizzeri in Austria. Ci sono degli aspetti particolari di questi mercatini? Cercano di distinguersi in qualche modo? Secondo me, come ho detto, il prezzo è una componente. Oltre il prezzo, immagino che i mercatini ormai sono anni che sono sul mercato, diciamo così, e quindi d'Italia, di Nord Italia, di Nord Europa se ne ha parlato già tanto, quindi gran parte degli utenti stanno scoprendo luoghi nuovi, perché magari sono turisti di seconda, terza occasione per i mercatini, quindi questo forse è il pezzo più interessante, quindi evocano cose nuove, evocano circuiti nuovi da scoprire, che sono comunque vicini, perché uno pensa che con poche ore si riesce ad andare in queste destinazioni. Certo, con poche ore di volo. Senti, queste sono le segnalazioni quindi emerse dal sito Travelful, poi c'è Paesi Online. Sì, Paesi Online è una delle prime guide turistiche in Italia e anche lì abbiamo una pagina Facebook molto molto importante, postiamo proposte, luoghi e destinazioni, stiamo vedendo che sempre l'Europa va moltissimo, Praga è un classico, comunque richiama l'atmosfera natalizia come poche altre destinazioni, stiamo vedendo un grandissimo successo di Lisbona, Lisbona ha investito tanto in questo periodo, ci sono diversi eventi dedicati molto particolari al Natale, per esempio fanno una proiezione 3D sui palazzi storici della città, ci sono spettacoli e concerti natalizi, c'è il villaggio classico di Natale, la pista di pattinaggio e c'è una fabbrica di giocattoli per i bambini, quindi cercano un po' di rispondere a tutte le esigenze del mercato, a tutte le esigenze esperienziali del turismo. Quindi Lisbona e Praga sono tra le capitali che stanno avendo numeri interessanti, quindi un pubblico interessante. E poi ci sono le segnalazioni anche in vista dell'Epifania, che sarà un altro boom di partenze prevedibilmente. Quali sono le destinazioni estere che a Paesi Online risultano più cliccate, insomma più ricercate? Sulla parte estera forse Berlino e Londra, perché l'Epifania è comunque, anche se quest'anno viene di sabato se non sbaglio, quindi non è un vero e proprio ponte, però è sempre un modo per fare un city break, ecco, quindi un weekend all'estero, quindi Berlino e Londra sono sicuramente le più interessanti. Per chi sceglie il mare, molto molto successo sta avendo Tenerife, quindi un posto caldo vicino, quindi Tenerife per chi sceglie il mare, per chi sceglie il caldo, e Berlino e Londra le classiche dei ponti di questo periodo. Diciamo le intramontabili, perché poi Berlino e Londra restano sempre mete appetibili per tutto l'anno. Luca, poi ci sono anche epifanie curiose come le avete descritte voi, cose particolari da fare proprio alla Befana. La Befana, diciamo, torniamo un po' in Italia, che anche è piena di cose interessanti. E quelle più curiose possiamo dire la Befana in mongolfiera a Mondovì in Piemonte, molto interessante, particolare, la Befana sull'acqua a Comacchio qui bisogna non avere paura di volare, diciamo, perché sì, sennò oppure di guardare per un bel po' con la testa in su, e la Befana volante di Foligno, quindi comunque parliamo di cose molto particolari, molto sceniche, diciamo. Poi c'è il classico di Verona, che è la Brusa alla Vecchia, un evento che richiama molto, e Montepulciano che sta crescendo nel posizionamento dei mercatini di Natale, perché Montepulciano è bellissima, si presta anche Montepulciano come destinazione, come piccolo borgo sul Natale, c'è un villaggio di Babbo Natale molto interessante con dei mercatini che hanno una proposta variegata, no? Lì è comunque un territorio di enogastronomia, quindi questo lo aiuta molto. Senti, Valica, abbiamo detto che è una tourism marketing company proprietaria di 8 siti, tra questi c'è Good Trekking. Ecco, anche in queste festività il trekking è un appuntamento importante. Sì, è un appuntamento importante e strategico, se vogliamo, perché aiuta a tornare a muoversi, quindi anche lì pubblichiamo tantissimi itinerari e ne voglio citare uno molto semplice, magari può essere abbinato anche a una destinazione importante come Roma, che è il Parco Regionale dei Castelli Romani, che è a pochi chilometri da Roma, Rocca di Papa in primis, dove ci sono dei bellissimi boschi con un'altitudine interessante, quindi molto panoramici, ci sono i due laghi, di Albano e di Nemi, ed è possibile fare un trekking, poi trekking è un po' ampio, la passeggiata, il night walking, quindi godere un po', non c'è la neve, quindi con una scarpa normale si riesce a camminare anche per decine di chilometri, è sicuramente un trekking interessante per gli amanti di questo tipo di turismo, e poi abbinabile a Roma oppure a località dei Castelli Romani come Frascati, come Nemi, come Castel Gandolfo. Grazie Luca per le tue segnalazioni, grazie a Luca Cotichini, marketing manager di Valica, grazie. Grazie a voi, buone feste a tutti. Come sentivate, un grandissimo successo dei paesi dell'est quest'anno, a partire dalle repubbliche baltiche, dove a creare molta aspettativa sono i mercatini di Natale. Allora io ho chiamato Daniele Tremea, che vive a Tallinn e lavora proprio in ambito turistico, e gli ho chiesto conferma di questo successo. Assolutamente sì, anche se la neve è sempre un po' un'incognita, però sono sicuramente dei mercatini tipici delle tre capitali, che ricordano molto i paesaggi del nord della Finlandia, di Rovaniemi, eccetera. E anche se non dovesse esserci neve, sono comunque ambientazioni molto piavesche. Poi il fatto che faccia buio già a partire dalle 3 di sera le rende ancora più particolari e interessanti. E ultimamente effettivamente sia Riga che Tallinn che Vilnius hanno avuto un boom a livello di turisti, non solo dall'Europa ma da tutto il mondo. I mercatini sono sicuramente un'attrazione in più, e fino a qualche anno fa non erano molto conosciuti, i paesi baltici erano stati soprattutto nel periodo estivo, però da 4-5 anni a questa parte effettivamente anche i mercatini attraggono moltissimo, e poi durano parecchio, nel senso che per esempio a Tallinn durano da metà novembre fino a inizio gennaio, quindi c'è anche la possibilità di visitarli prima di Natale o a fine novembre, eccetera. Rende la cosa più semplice. Senta Daniele, hanno qualcosa di particolare questi mercatini di Natale? Perché diciamo che quelli tra l'Italia, la Germania, la Svizzera hanno degli elementi comuni. Ci sono delle particolarità o magari delle attrattive specifiche per i bambini? Allora, per i bambini c'è sicuramente la casetta di Babbo Natale, con Babbo Natale che aspetta i bambini, eccetera. Poi ci sono gli animali, ci sono piccoli recinti con degli animali che direi praticamente interessanti. La cosa particolare, ma penso che sia abbastanza simile anche negli altri mercatini in Europa, ovviamente l'artigianato e la gastronomia locale, e anche spettacoli folcloristici che sono praticamente presentati durante tutta la giornata, e che sono tipicamente locali. Diciamo che se si fa una scelta di questo tipo, non è che si viene a Tallinn o nelle altre capitali dei paesi baltici solo per i mercatini. Quindi una volta che uno ha girato il mercatino, immagino ci siano altre cose che può fare durante queste festività natalizie. Sì, assolutamente. Visitare le tre capitali baltiche per i mercatini vuol dire anche visitare le capitali hanno molto da offrire, e poi effettivamente anche per Capodanno ad esempio ci sono molti spettacoli organizzati, sono attrattive particolari, eccetera, quindi è un insieme di cose che rende, diciamo, la visita del mercatino di Natale interessante. È possibile, secondo lei, in un unico diciamo periodo, in un unico viaggio, spostarsi tra le tre capitali e quindi avere la possibilità di girarle tutte e tre in poco tempo? Diciamo che in 5-6 giorni è fattibile, considerando che per spostarsi da una capitale all'altra bisogna preventivare il trasferimento con il pullman di linea, che sono ottimi pullman di linea, e il tragitto è di circa 4 ore in pullman tra una capitale e l'altra. In 5 giorni si può fare, visitare tutti e tre i paesi bassi. Possiamo dire che questi paesi sono diventati una meta per molti, anche perché hanno un costo forse più accessibile rispetto ad altre capitali europee? Se guardiamo da un punto di vista globale dei tre paesi baltici, direi di sì. Consideriamo però che l'Estonia è comunque la più cara dei tre paesi e i prezzi sono lievitati ultimamente. Però se si prevede un pacchetto che include anche la Lituania e la Lettonia, dove i prezzi sono nettamente meno cari, si può effettivamente dire che a livello, diciamo, di costi può essere una meta da considerare. Se lei dovesse scegliere, oltre ovviamente ai mercatini, perché abbiamo detto sono in questo momento imprescindibili, ma se dovesse dare tre consigli di tre cose da vedere in queste tre capitali, cosa sceglierebbe? Ma per tutte e tre le capitali suggerirei il centro storico, perché sono tre centri storici completamente diversi e sono tutti e tre molto molto belli, quindi sono molto diversi tra di loro e sicuramente è un'attrattiva a non perdere. Volendo essere più espansivi, diciamo, dal punto di vista di proposte, poi chiaramente ogni città ha le sue, diciamo, le sue attrattive particolari, però io punterei molto sul centro storico, soprattutto se si prevede un viaggio di 5 giorni, ecco, è un giorno da dedicare alla visita di ogni centro storico, credo che sia il minimo almeno da considerare. Quindi camminare? Sì, assolutamente sì, perché a parte che nel centro storico non c'è accesso al traffico, quindi è pedonale, soprattutto a Tallinn e Riga, ma è proprio la bellezza dei centri storici di per sé che richiede una visita a piedi. Poi si possono fare escursioni all'esterno della città, però se si prevede un viaggio nel periodo invernale, io consiglierei di concentrarsi soprattutto sulla visita della città. Per questo periodo natalizio siete già al completo o c'è ancora qualche disponibilità per venire, magari per i ritardatari, per quelli che fino a ieri non sapevano ancora come trascorrere il proprio Capodanno? Purtroppo, essendo delle mete gettonate, ormai a livello di disponibilità diciamo che fa un po' fatica, ormai è troppo tardi. Però io invito le persone a visitare i Paesi Baltici soprattutto nel periodo estivo, perché permette di vedere cose al di là delle capitali che sono particolarmente belle da visitare. Segnalazioni dunque come sempre importanti. Valeria, adesso ci fermiamo, ma torniamo tra pochissimo. Motori elettrici simotopgroup.com, la qualità che ha conquistato l'Europa. Vi presenta Globetrotter 24. Ancora insieme per raccontarvi tutte le proposte di questo periodo natalizio e, come si sa, il Natale è soprattutto la festa dei più piccoli, sarà anche una banalità, in molti casi è anche un po' riduttivo perché per molti di noi era e resta un momento speciale. Tornando ai bambini, abbiamo molte segnalazioni che abbiamo raccolto in rete. Oh, the weather outside is frightful. E io ti sorprendo ancora una volta, perché tu sei mamma, ma le segnalazioni le ho raccolte io. Ci sono tantissimi appuntamenti, perché il Natale è un periodo, immagino, particolare, perché da un lato c'è la gioia di una festa che è in gran parte una festa per loro, dall'altro c'è anche un po' di nervosismo perché i bambini sono a casa, insomma bisogna anche preparare per loro tanti appuntamenti e fargli vivere l'atmosfera natalizia. E allora, Valeria, partiamo da un appuntamento classico, la grotta di Babbo Natale ad Ornavasso. Essendo ormai una struttura rodata, è tutto organizzato, compreso un trenino che dal parcheggio porta a quello che a tutti gli effetti è un vero e proprio villaggio. Si indossa il casco e ci si addentra nella grotta, dove non si possono fare foto private ma solo foto da comprare. L'aspetto interessante che non va sottovalutato è il viaggio fino a Ornavasso sul Lago Maggiore, perché la strada è molto bella, merita di essere osservata con attenzione anche dai bimbi. Il costo del biglietto è contenuto, 15,50 euro a partire dai 3 anni. La prenotazione e l'acquisto si fa online. In questi giorni potrà sembrare strano, c'è maggiore disponibilità rispetto ai primi giorni di dicembre. Tralasciamo tutto il capitolo mercatini di Natale, l'abbiamo affrontato, però se per caso siete in quel di Bolzano, per la precisione sopra Bolzano, non vi potrà sfuggire il trenino del Renon. Se poi per salire da Bolzano aggiungete anche la funivia, per 15 euro gli adulti e 7,50 euro i bambini fino a 6 anni, andate e tornate. Ed è un trenino da favola molto bello, un trenino da favola nel vero senso della parola. E poi Valeria, l'ultimo appuntamento è quello del sud, un appuntamento che fa impazzire letteralmente i bambini, anche i grandi, devo dirti la verità. È a Salerno e sono le luci d'artista, ogni anno sempre più belle e sempre più ricche. Pensa che la manifestazione è nata dal gemellaggio con la città di Torino, ma poi Salerno è diventata un po' la capitale di queste luci d'artista e l'edizione di quest'anno è particolarmente ricca per bambini e per adulti. E Anna, io ti sorprenderò perché io il primo di gennaio sarò proprio a Salerno con il mio bambino per andare a vedere le luci di Natale. Straordinario. Torniamo al nostro giro per l'Europa. Un altro paese che ha riscosso moltissimo successo è la Polonia. Qui i mercatini però sono già finiti, almeno quelli ufficiali, perché poi Roberto Polce, che da anni vive a Danzica, ci ha raccontato che in realtà molte bancarelle resistono fino all'Epifania. Abbiamo avuto molti più turisti da tutta Europa e dall'Italia in particolare quest'anno. Infatti siamo molto sorpresi, è un grande, insomma, piace sempre di più. C'è anche una questione di sicurezza, pare che sia uno dei paesi più sicuri d'Europa, quindi fa le tante cose, poi è esotico, è familiare perché comunque è un paese pienamente occidentale, cattolico, però ha ovviamente questo non so che di esotico dei paesi slavi, quindi qualcosa, questo oltre cortina che forse nell'immaginario continua a funzionare. Roberto, secondo te cos'è che attira di più il turista nel periodo natalizio? Perché poi diciamo che la Polonia è sicuramente una meta che è stata scoperta negli ultimi anni durante tutto il periodo dell'anno, ma in particolare nel periodo delle feste, che cos'è che secondo te attira di più? Beh, allora innanzitutto siamo molto a nord, quindi ovviamente per noi feste di Natale vuol dire atmosfera invernale, vuol dire neve, vuol dire queste cose, e qui c'è molta, devo dire che in questo momento si preannunciano già le prime nevicate, quindi c'è molta più probabilità che in Italia di poter avere, come dire, le città imbiancate, quindi i presepi, diciamo, sì, le città trasformate in presepi. E poi c'è un'atmosfera molto particolare perché qui la Polonia è sempre stata per secoli in contatto nel bene o nel male con la Germania, quindi arrivano atmosfere natalizie tipiche della Germania, fra cui i famosi i mercatini di Natale, i mercatini dell'Avvento, che ormai sono diffusi anche da noi in Italia, lo sappiamo, però qui è una tradizione più radicata e anche questo contribuisce a creare questo clima che piace tanto a noi italiani. Ecco, però Roberto, proprio a proposito dei mercatini di Natale, diciamo che per quanto ci riguarda sono già terminati perché chiudono tutti intorno al 23 dicembre. Sì, chiudono quasi tutti, meno quello di Cracovia che ha ancora una coda che arriva fino al 26 dicembre. In genere i mercatini dell'Avvento chiudono prima di Natale stesso, però l'atmosfera non è che, voglio dire, l'atmosfera delle diverse città di questi mercatini, poi di fatto molte bancarelle non strutturate magari più nel mercatino dell'Avvento continuano poi a funzionare anche nel periodo successivo, per tutto il periodo delle feste fino all'Epifania. Ecco, tieni conto che ovviamente tutti i mercatini di Natale delle città polacche avvengono solo nella città vecchia, quindi lì non tutto poi viene smontato, smantellato, e l'atmosfera in qualche modo va ancora avanti, prosegue insomma fino a Capodanno, poi a Capodanno sempre negli stessi, più o meno negli stessi luoghi, nelle piazze del mercato delle città vecchie si tengono i concerti di fine anno, quindi festeggiamenti di San Silvestro. Quindi i motivi, diciamo così, per venire a fare una scappata qui in un weekend lungo nelle città polacche per il periodo festivo, devo dire che non vengono mai meno le ragioni, almeno fino all'Epifania. Ecco, a proposito di Capodanno, tu citavi i concerti. Questi sono concerti aperti a tutti, quindi possiamo dire che chi volesse cogliere l'ultima occasione per venire in Polonia può aspettarsi anche un Capodanno particolare? Assolutamente sì, sono aperti al pubblico. Io vivo a Danzica, qui nella piazza del mercato del Carbone. Tradizionalmente c'è sempre una grande piazza proprio appena fuori dalle mura della città, e lì ogni anno c'è un concerto. Adesso non ricordo chi sia, in genere sono delle stelle di prima grandezza della musica polacca, quindi certo, magari sconosciute per gli italiani, però vale la pena, sono a un ottimo livello e c'è questa atmosfera di festa molto rilassata. In genere sono situazioni molto molto tranquille, molto rilassate, e può essere sì un'ottima occasione per passare, ecco, per festeggiare l'arrivo del nuovo anno in maniera un po' diversa. Questo però avviene in tutte le città polacche, quindi a Varsavia, a Cracovia, nell'ambito della città vecchia, nelle piazze del mercato avvengono di solito questi concerti che sono aperti al pubblico. Breslavia, dove l'elemento dominante è Breslavia, la città degli gnomi, l'elemento dominante è uno gnomo che sostituisce Babbo Natale, perché si chiama Presentus, che vuol dire regaluccio, gnomo regaluccio, qualcosa del genere, e quello lì continuerà a circolare ovviamente per la città vecchia anche fino all'Epifania. I bambini polacchi sono fortunati perché da un lato loro ricevono i regali per il giorno di San Nicola, che è il 6 dicembre, poi per Natale e poi di nuovo per l'Epifania, per la festa dei Re Magi, che adesso piano piano sta prendendo piede anche qui, quindi hanno motivo di essere tre volte felici. Eh beh, certo, tre regali in un mese non è da tutti, non è da tutti i bambini. Roberto, tu dicevi sicuramente importante è stata anche l'influenza della Germania, che è appunto così vicina, per quanto riguarda l'atmosfera, le festività, i mercatini. Diciamo forse anche che, a differenza però dei costi della Germania, la Polonia forse è ancora un po' a buon mercato per chi si avvicina a questo tipo di esperienza turistica, quindi forse anche questo ha così favorito lo sviluppo del turismo negli ultimi anni. Assolutamente sì, assolutamente, è ancora un paese per noi conveniente, anche se sta crescendo, ma purtroppo lo parlo dal punto di vista delle tasche di noi italiani, però è ancora molto conveniente, quindi è uno dei motivi. In genere il cibo, i ristoranti, i locali, la birra costano veramente molto meno che in Italia. E poi c'è un motivo di attrazione anche per souvenir, regali e per via natalizia, ma anche fuori c'è un artigianato artistico in Polonia molto fiorente, che ogni regione ha un suo artigianato particolare, e ancora questi prodotti non sono made in China, quindi sono veramente fatti qui a buoni prezzi, si possono acquistare delle belle cose. Ripeto, anche fuori dal mercatino, Danzica per esempio, la capitale mondiale dell'ambra, l'oro del Baltico, questa resina fossile, a ogni angolo c'è un negozietto che vende prodotti di ambra, quindi questo tipo di cose che non si trovano altrove. Ecco, diciamo che nel rispetto al resto d'Europa la Polonia ha questo, che presenta dei motivi di attrazione che sono veramente originali. Senti Roberto, per un momento ti chiedo di non pensare al fatto che tu vivi a Danzica. Se dovessi dare un suggerimento e scegliere una sola città polacca, perché magari chi parte ha pochissimi giorni a disposizione per queste festività, quindi per questi altri pochi giorni che restano ancora da vivere in queste feste, quale città sceglieresti, quale città indicheresti al viaggiatore? Io non sono guida turistica solo a Danzica, ma faccio l'accompagnatore per tutta la Polonia, quindi spesso porto gruppi un po' dappertutto. Ti parlo con le parole di quasi tutti quelli che arrivano qua. La sorpresa più grande, tutte le città polacche sono belle, sono interessanti, però la sorpresa più grande per loro è proprio Danzica, perché è un'atmosfera completamente diversa, nel senso di Cracovia è bellissima, Varsavia è molto eterogenea, molto interessante, ha molti, molti motivi di attrazione. Molto bella Breslavia, sono città, maggior parte mitteleuropee, atmosfere che forse come dire, ci sono un po', tra virgolette, in senso positivo, sono già un po' déjà vu. Invece Danzig ha questa atmosfera, diciamo così, marinara, perché è una città sul Baltico, una città della Lega Anseatica, quindi ha un'atmosfera completamente diversa. Quindi io, oddio, ripeto, non a caso mi sono innamorato proprio di Danzig, però parlando anche con per bocca della maggior parte dei turisti che dopo aver fatto Cracovia, Varsavia, Breslavia, Torun, arrivano qui a Danzig e rimangono un po' a bocca aperta, perché c'è un'atmosfera speciale, ripeto, mare, Mitteleuropa, però nord, però comunque qualcosa di familiare anche per noi italiani, perché comunque un po' di barocco. Poi, ripeto, la cosa fondamentale comunque è l'intensità con cui qui vengono vissute le feste, questo non solo a Danzig, ma un po' in tutta la Polonia, un'intensità che in Germania si è persa e che probabilmente un pochino si sta perdendo anche da noi. Valeria, un carico di segnalazioni quasi quanto quello che porta Babbo Natale, no? E speriamo, Anna. Speriamo soprattutto di avervi incuriosito, di avervi interessato, di avervi dato spunti interessanti. Di avervi aiutato un pochino in questi giorni con appunto le nostre proposte. Se siete proprio ritardatari, c'è ancora molto e molto che potete fare. Auguri di nuovo a tutti. Buon anno.